Amen, ci apparteniamo, è vero? Famiglia, chiesa, no, anzi, lo devo dire alla vecchia maniera, fratelli e sorelle, non trovate avvincente, entusiasmante vivere quello che noi viviamo, che abbiamo vissuto fino ad adesso, questa sera? Il Signore ha già aperto, ha tolto, ha ricucito e ha cicatrizzato, già. Amen, lo crediamo? Io lo credo fermamente, lo vivo anche. E spero e prego che la parola che mi ha affidato per tutti noi questa sera possa essere un balsamo su quello che il Signore opera all'interno di noi per la realizzazione della sua volontà. Perciò subito noi andiamo a leggere un passo che ha del incredibile. Sono le parole dirette di Gesù. È Gesù che sta parlando, è proprio Gesù che sta parlando. Leggiamo da Giovanni, dovrebbe essere proiettato, da Giovanni al capitolo 7, il verso 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, era la festa delle capanne, cosiddetta, Gesù, stando in piedi, esclamò. Si alzò in piedi. È scritto come unica volta che Gesù si alzò in piedi. L'altra volta è quando entrò nella sinagoga. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Che cosa ha detto Gesù qui? Gesù ha detto molto semplicemente: hai sete? Vieni a me, bevi e tu stesso diventerai una fonte. Qui ci vorrebbe un bel no, amen, un bel amen, amen, dice, così è, così sì, ci vuole un bel wow di quelli moderni. Io credo che se la Bibbia fosse stata scritta in questo tempo, nella Bibbia trovavamo scritto tante volte wow, perché esprime di più quel credere, quella forza. Amen, è molto bello quando noi lo diciamo amen, per dire ci credo fino in fondo anche il mio sangue. Quando dice amen vuol dire en passant, così come viene. Ma questa è la realtà. Tu bevi e diventi fonte. Forse è possibile una cosa del genere. Io lo so che dà dello spirituale, del fantascientifico, di qualcosa che è inafferrabile. Ma Gesù questo stesso concetto lo spiega con altre parole, con un altro linguaggio, forse più semplice e più alla nostra portata, di allora ma anche di oggi. È scritto nello stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, il verso 24, lo vediamo, vedete che cosa dice. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Quello che il Signore sta dicendo è il segreto, e sta parlando, non lo dimentichiamo, lo ripeterò molte volte, sta parlando a riguardo dello Spirito Santo. Sta parlando a riguardo della potenza e delle armi che Dio ha voluto offrire a noi per poter vivere e vincere ogni situazione nella nostra vita. Il segreto però, il segreto è morire. E non è, noi lo comprendiamo, non è che muore il seme, ha quel fermento dentro, tutti quelli che sono, che ne so io, quello che contiene un seme poi germoglia. E così anche il Signore dice, chi ha sete? Chi ha sete? Abbiamo sete? La domanda è proprio questa a noi. Abbiamo sete? La mia sensazione è che, e parlo sì naturalmente, ma anche spiritualmente, è che non abbiamo tanta sete. Sapete perché? Semplicemente perché oggi ci sono tante alternative. Tu prendi, quanta acqua beviamo noi? Più che niente, perché? Perché alla televisione ci tartassano di quella bevanda così e di quella bevanda colì, che quella non solo ti disseta, ti dicono, ma ti dà anche, e ti fanno vedere mondi e tramonti, cioè una cosa in greco, cioè che ne ha bevuta di una bibita, e invece ti fanno vedere non lo so che cosa. E poi alla fine, se vai a scoprire e vai a studiare, queste bevande creano dipendenza. Devi bere sempre di più senza che tu ti disseta. È incredibile. E così adesso ci fanno bere a pranzo, noi a noi è bello un bicchiere di acqua, un bicchiere di vino, questa è la nostra tradizione, ma ci sono tutte le bevande a pranzo, è vero, no? Cose che noi non conoscevamo mai. Spiritualmente, io sento, ho la sensazione che è la stessa cosa. Nel tempo in cui viviamo, nella società che viviamo, sembra che noi abbiamo tante alternative all'andare a Gesù e bere. E ricordatevi, dice questo dello Spirito Santo, dice questo del suo Spirito. Noi abbiamo tante alternative, abbiamo delle difficoltà, stiamo vivendo delle difficoltà. A seconda delle difficoltà abbiamo subito la risposta. Se le difficoltà sono problemi psicologici, adesso si chiamano problemi psicologici, una volta si chiamavano diversi, noi chiamavamo anche legami, anche cose, ma facilmente ci si rivolge allo psicologo. Non è che va bene. Non è malamente, non stiamo predicando contro. Ma vai prima a Gesù. Ma andiamo prima a Gesù. Lui ha promesso la potenza del suo Spirito Santo dentro di noi, che può agire e rivoluzionare ogni cosa nella nostra vita e le nostre situazioni. Dobbiamo solo avere questa accortezza di avere sete e andare a quella fonte. Niente di complicato, molto molto semplice quello che il Signore dice. E così vale con le malattie. E così vale, abbiamo la tristezza, i divertimenti. Andiamo ai divertimenti, ci dobbiamo, come si usa dire, ci dobbiamo svagare. Non ho mai capito che cosa vuol dire svagarsi, ma alla fine sei più pesante di prima. Quindi vedete che non funziona, non funziona. Diciamo quello che vogliamo, ma non funziona. Gesù ha detto, venite a me. È lui che ha promesso lo Spirito Santo e la potenza dello Spirito Santo. Allora, quando hai qualsiasi bisogno, quando ti trovi in qualsiasi situazione, qualsiasi è la situazione, non commettere l'errore di andare a pensare prima che cosa ti può aiutare, che cosa può risolvere. C'è una cosa che aiuta e che risolve, andare alla fonte. E lui ti riempie, ti inonda della sua potenza e dei doni della potenza sua per intervenire in ogni situazione. E Gesù lo fa, e io credo che se chiedessi in questo momento testimonianze, decine e decine di mani, anzi, o di bocche si aprirebbero per dire quello che il Signore ha fatto. Perciò continuiamo. Il Signore vuole che noi usiamo, adoperiamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Ma come si fa? Poi lo vediamo. Non commettiamo l'errore. E io lo dico specialmente a noi, come famiglia del Signore Gesù, non commettiamo l'errore di farci imbrogliare e correre facilmente a quelli che sono dei palliativi, invece che andare alla fonte. Non farti imbrogliare. Io te lo voglio far dire, mo lo diciamo, alla maniera di Ageo. Conoscete Ageo? Dice, non ci ho mai mangiato insieme. Non... Effettivamente è così, è vero. E nel Vecchio Testamento vengono chiamati i profeti minori. E non perché sono più piccoli, ma semplicemente perché hanno scritto delle cartoline. Il Signore gli ha dato una visione e infatti a Ageo c'è uno e due capitoli. Basta. Non c'è più. E quello che il Signore ha messo nel cuore di Ageo, e questo ci deve parlare questa sera, è la ricostruzione del Tempio. Chi è il Tempio? No, io sono il Tempio del Signore. E lì il Signore dà una parola profetica proprio per la ricostruzione. E a un certo punto dice questo. Lo andiamo a leggere, vedete quello che è scritto. L'ho fatto scrivere io così, però è scritto così. Ageo, anche se ci dovete mettere mezz'ora a cercare Ageo, andatele a leggere. Due capitoli sono. Però è scritto proprio così. Io ho fatto mettere i puntini, non ci sono, perché io desidero leggere solo la prima parte e voi leggerete la seconda parte affinché partecipiamo insieme a questa confessione. Qua dice, avete seminato... Questo è quando dire, non basta mai. Come stai? Come stai? Potevo stare meglio. Ti viene da dire, ma stai bene, ringrazia il Signore. Voi mangiate? Ma senza saziarvi. Ed è effettivamente quello che accade oggi. Nessuno mangia per fame. Ognuno mangia per riempire qualcosa che non è lo stomaco, ma sono i sentimenti e la testa. È proprio reale, vedete? È proprio reale. Poi che dice? Bevete? L'abbiamo già illustrato in maniera ampia, no? Senza soddisfare la nostra sete. E quando Gesù parla di questo, ricordiamoci che parla dello Spirito Santo. Parla dello Spirito Santo. Vi vestite? L'altra sera siamo andati un po' a fare spese, mia moglie ed io. E io poi mi incanto ogni tanto perché ho visto una ragazza che era vestita, magliettina a maniche lunghe, nera, sottile, sottile, sottile, sai? Poi sopra una camicetta a maniche corte, ma come di seta, e sopra quella un gilet. Poi la parte di sotto era quelle che le calzamaglie, che ne so io, quelle calze un po' più grosse, e il pantaloncino. Allora io ho pensato questo, non è così che è la moda, che le sciarpe che vendono adesso sono delle coperte, è una necessità, perché se uno si veste così, per forza che le sciarpe devono essere coperte, è reale, ma quanto è reale, è vero, è incredibile. Allora, quando noi facciamo l'incontro della squadra pastorale con il nostro pastore, c'è Sara che viene con la sua sciarpa. Allora, dovete voi capire che ce l'ha, vedete, la sua coperta, io la chiamo coperta, la mette addosso a lei e addosso a mia nuora e ci può stare sotto anche un altro. È realmente un bisogno, per come vedete, qui c'è scritto, vi vestite, ma non c'è, cioè non ci vestiamo per scaldarci, è il di più, è il di più. E l'ultimo dice, chi guadagna un salario? Dai, e diciamolo. Ed è vero, ed è vero, ed è vero. Questo è detto all'Ageo, quello che noi viviamo oggi, quello che noi sperimentiamo in tutto quello che è intorno a noi. Questo noi viviamo, fratelli e sorelle. Perciò ecco che il Signore ha detto quello dello Spirito Santo. Anzi, nel verso 7 che non c'è scritto, il Signore dice: riflettete bene alla condotta che avete. Riflettete bene alla condotta che avete. A chi ti vai a dissetare? Da lì ricevi. La bevanda che usi, quella ti deve dissetare. È disseta? Ricordati che il Signore ha detto questo riguardo allo Spirito Santo e ai doni che sono per mezzo dello Spirito Santo. Anzi, c'è un altro passo che possiamo anche leggere insieme, è che il Signore stesso dice, scritto in Apocalisse 3, vedete che cosa è scritto qui, anche questo è molto forte, uguale ad Ageo, ed è incredibile quella che è la parola di Dio, così semplice. Dice, tu dici, e lo diciamo, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sei invece che, tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Quanto rispecchia la realtà di quello che si vive oggi. Perciò andiamo alla fonte. Andiamo alla fonte, perché là il Signore ha messo il segreto dell'affrontare ogni situazione, la nostra vita stessa. Anzi, io dirò di più, il Signore ci ha formato, è scritto nella sua parola, ci ha formati, ci ha fatti in una maniera stupenda, ci ha fatti in una maniera incredibile, ci ha fatti, cioè, vedete, la barca è costruita per galleggiare sull'acqua. E quindi solca i mari e solca ogni cosa. Ma se la barca imbarca acqua, che cosa succede? Affonda. E allora da che cosa ci stiamo dissetando? Di che cosa ci stiamo dissetando? È quello che appaga la nostra sete. Ma ricordiamoci che quello che il mondo offre non mette solo più sete, mette solo più una dipendenza di ricorrere di più e di più e non essere mai saziati. Bevete e nessuno si disseta, abbiamo letto. Il Signore ci ha fatto in maniera stupenda affinché noi possiamo vivere, come lo diciamo alla maniera della sua parola, che è scritto anche in Giovanni, una vita in abbondanza, esuberante, traboccante, e essere per gli altri anche una vita esuberante, cioè essere l'esempio e far vivere agli altri anche una vita vera. Ma io lo so che poi a tutto questo c'è la fatitica domanda che ci facciamo. Sì, ma come si fa a bere? Io posso dire in maniera molto semplice la parola di Dio. Ma è così semplice, ma è così elementare, ma è così non devi leggere con un teologo a fianco. È già questo, è qualcosa che assomiglia a te, che è parte di te. E se tu la leggi e tu la incameri dentro e ne fai parte, quelle bere anche. E la parola di Dio ha una risposta a ogni cosa. Io vi mostrerò in maniera molto semplice due esempi, anzi due, prendiamo in esame solo due personaggi della parola di Dio, come hanno fatto loro per bere. Allora io dico, fai come Isacco. Forse non tutti quanti noi conosciamo Isacco, ma la storia è molto semplice. Lui è il figlio della promessa di Dio ad Abramo. Abramo voleva tanto un figlio, aveva raggiunto la veneranda età di 75 anni, desiderava un erede e desiderava una discendenza, ma ormai né lui né la moglie a quell'età potevano avere. Ha dovuto pazientare per la promessa del Signore altri 25 anni, quindi la pazienza proprio al limite massimo. A 100 anni ha ricevuto il figlio della promessa e Isacco. E Isacco era l'erede, ha ricevuto tutte le eredità del padre. Ha ricevuto ogni cosa, anzi è scritto che lui stesso si è arricchito oltremodo, logicamente la ricchezza d'allora erano le greggi, gli armenti in genere, questa era la ricchezza da lui, e i suoi greggi crescevano oltremodo e i suoi nemici lo contrastavano, lui più cresceva e più i nemici mettevano ostacoli per fargli mancare la cosa più importante che serviva a lui, qual era? L'acqua. Allora non poteva, cioè poteva avere tanto greggio, poteva avere tanti armenti, ma se mancava l'acqua non avevano nessun valore. Allora che cosa ha fatto Isacco? Vedendo che gli impedivano di andare ad abbeverare le sue greggi alle fonti che c'erano e che appartenevano ai vari re, allora Isacco è ritornato in sé e ha detto: io ritornerò ai pozzi di mio padre. Questo è scritto, questa storia in Esodo, no, Genesi, al capitolo 26, Genesi 26, c'è proprio questa storia. Ed è tornato ai pozzi che il papà aveva scavato prima. Erano pozzi che davano acqua abbondante. Ma che cosa aveva trovato? Che i suoi nemici, quelli non mancano mai. Questo ci deve parlare, fratelli e sorelle. Non mancano mai. I suoi nemici avevano otturato quei pozzi. Che cosa ha fatto lui? Secondo voi, che cosa ha fatto Isacco? Qui è proprio l'intera conoscenza di questa storia che noi come Chiesa abbiamo, emerge proprio in una maniera incredibile. Qualcuno ricorda vagamente, ha riscavato quei pozzi. E ricordati che il Signore sta dicendo questo dello Spirito Santo. Riscava i tuoi pozzi. Ritorna a quella che è la chiamata di Dio o la promessa che Dio ha fatto a te. Riscava quel pozzo. Vai a rinverdire, riesuma, fai risuscitare i doni che il Signore ti ha dato e che sono lì o nel cassetto o non servono o non c'è bisogno, non sono indispensabili. E il Signore allora perché me li ha dati? Perché te li ha dati? Perché ce li ha dati? Perché ci ha ripieno e ci vuole continuare a riempire dello Spirito Santo? Ritorna e riscava. Riscava quei doni del discernimento, della sapienza, sapessi quanto sono una guida nelle situazioni difficili che noi viviamo. Il Signore ha affidato a noi, parla in nuove lingue, a proposito e a sproposito, non ti porre problema, è il luogo giusto, è il momento giusto, non è... Parla in nuove lingue, perché è scritto che edifica te stesso. Questa è l'arma, queste sono le armi che il Signore ha messo a nostra disposizione. Non stai comprendendo di che cosa sto parlando? È possibilissimo. Allora, Hai corso di consolidamento 1? Hai corso di consolidamento 2? Hai i gruppi familiari? Hai l'incontro di condivisione? Insomma, ne abbiamo di più. Non è che tutto nella domenica noi vogliamo comprendere. È chiaro, perché abbiamo tutte queste cose? Proprio per approfondire. Allora, vai ad approfondire, vedi, domanda e chiedi. Però prima di questo, leggi. Leggiamo. Fai come? E qui viene un altro esempio molto bello. Fai come Giosafat. E questo è scritto in Due Re, la parola d'ordine. Voi dovete sapere che c'è Jonathan, che viene sempre a me quando sono io e dice: pastore, quando è che devo intervenire con la musica? Allora è un servo stupendo. Allora io gli ho detto: Giosa, come ho detto, Giosa fatti è scattato in piedi stasera. Che bello averlo. Mo lo vediamo comparire qui. Tutto rosso, ma comparirà qui, va bene. Fai come Giosafat. Chi era Giosafat? Giosafat era re di Giuda. Era al tempo del profeta Eliseo. Voi dovete comprendere. E dopo Davide, dopo Salomone, il regno di Israele. Poverino, tutto rosso. Il regno di Israele si divise in due, con il regno di Giuda e il regno di Israele. E quindi regnavano due re. E Giosafat era il re di Giuda. Giuda era la tribù da cui è venuto il Signore Gesù. Quindi che cosa è successo? È successo che in quel tempo c'erano i Filistei. E chi non ha un filisteo alle calcagna alzi pure la mano. Ognuno di noi ha sempre un filisteo, un filisteino, un filisteone, ma ce l'abbiamo in ogni epoca e in ogni momento. E c'erano i filistei che combattevano Israele e Giuda, cercando di togliere il più possibile. Allora, che cosa hanno fatto? Che cosa ha fatto Giosafat? Ha preso la via più logica, la via più anche più semplice in un certo senso. Ha fatto alleanza. Si sono messi tre re insieme per combattere i Filistei. Si sono seduti a tavolino, qualche volta li vediamo questi film, no, da guerra. Allora, si sono seduti a tavolino con una grande tavola davanti, hanno aperto la cartina lì davanti e hanno detto: facciamo una strategia. E hanno fatto una bellissima strategia. Allora hanno indicato dove stavano i Filistei, hanno detto: i Filistei stanno qua e loro ci aspettano che noi veniamo di qui perché è l'unica via. Ma noi, ecco la strategia, noi li aggireremo e così li potremo combattere sia di dietro che dai due fianchi. 7 giorni nel deserto è venuto a mancare che cosa? Stavano morendo. Altro che strategia, non potevano nemmeno più avanzare. E in quel momento, quando stavano proprio per perire, Giosafat si è ricordato: ma io sono un figlio di Dio, io sono un servo di Dio. Vi parla questa cosa, che proprio quando siamo all'estremo, quando siamo nel bisogno più, allora ci ricordiamo che c'è Dio, che c'è il Signore. Ci ricordiamo, uno, per rimproverarlo: è tutto a me, Signore? È il primo, sono sempre io? E poi, semmai, per dire: però, se puoi, fai qualche cosa, l'ultima spiaggia, l'ultima spiaggia. Ma il Signore è talmente pieno di grazia che a discapito di quello che io penso, Lui risponde a quelle preghiere e risponde realmente. Che cosa è successo? Allora lì Giosafat si è ricordato che c'era un popolo che serviva il Signore e c'era un profeta che era Eliseo, e allora lo ha fatto chiamare affinché invocasse il Signore per tutti loro, e Eliseo ha invocato il Signore e ha detto ed ha avvisato a loro: sentite, io vi dirò quello che il Signore dice, poi a me non interessa più niente, d'accordo? Ok, che cosa gli ha detto Eliseo? Ha detto: erano nel deserto. Quante volte ci troviamo nel deserto? Ha detto: scavate delle buche, delle grosse buche. Non ci sarà né vento, né nuvole, né pioggia. Ma domani, a quest'ora, ci sarà l'acqua. Sei nel deserto, stai morendo di sete, non hai le forze nemmeno per camminare, devi scavare delle buche? Che cosa hanno fatto? Che cosa ha fatto Giosafat? Ha incoraggiato. Questa è la parola di Dio. Facciamo come dice il Signore. Hanno scavato le buche. E il giorno dopo, alla stessa ora, hanno trovato tutte quelle buche piene di acqua. L'acqua è venuta dalla parte più impensabile, dalla parte del deserto. Come sia avvenuto? Non lo so. È il miracolo di Dio. Adesso noi vediamo anche quei programmi, non so per chi vede sulla televisione Focus, oggi c'era, che spiegano i segreti della Bibbia, le 10 piaghe. Per ogni piaga danno una spiegazione e poi danno le loro spiegazioni scientifiche che non stanno né in piedi né in terra. È il Signore che interviene. Non ti preoccupare, tu scava la buca, tu sei chiamata a scavare la buca, non andare scientificamente a vedere da dove potrebbe venire l'acqua. Non andare a guardare in cielo se c'è una nuvola grande come una mano. Tu scava la buca, a questo il Signore ci ha chiamati e ci chiama. Scava la buca, cioè vai a riscoprire, vai a vedere quello che il Signore affidato a te. Loro lo fecero e hanno avuto l'acqua e hanno vinto anche la battaglia e ogni cosa. Perciò non pensare in maniera logica, non pensare in mai. Quando ti viene un pensiero logico, mettilo da parte. Quando ti viene un pensiero strategico, non dico buttalo, mettilo nel cassetto, metti sopra il foglio di quello che il Signore ti ha chiesto e di quello che il Signore ti chiede o ti ha chiamato. Quello devi mettere avanti, perché lì è il segreto della vittoria in ogni situazione. Pensa come Giosafat: Dio me lo ha chiesto, io lo farò. Non va niente che è pazzesco. Non va niente che ci vedono, abbiamo tanti esempi nella Bibbia, possiamo anche nominare Noè e così via. L'ha chiesto il Signore, fallo, può essere pure un'arca nel deserto, come Noè ha fatto. Può essere scavare delle buche laddove acqua scientificamente non può venire, è il Signore che lo fa. Pensa in maniera di come è scritto in 1 Corinzi 14. 1 Corinzi 14 parla dei doni spirituali, di tutti i doni spirituali, e dice: pensa con le capacità dello spirito. È molto bello, andate a leggere. Pensa con le capacità dello spirito. Noi dobbiamo imparare a pensare con le capacità dello spirito. Però torno indietro, il segreto è scavare, non c'è niente se non c'è l'impegno. Mi dice: ma come si fa a scavare? Che cosa vuol dire? Io non lo so, è inutile che lo chieda a me, nemmeno io lo so. Cioè, io quel che ti posso dire: prega, piangi, digiuna, grida, arrabbiati, chiedilo al Signore. Lui lo farà. Con me, io vedo che con me funziona in questa maniera. più io prendo l'attitudine e l'atteggiamento di voler cambiare e più vedo i doni dello Spirito Santo che in una maniera quasi automatica si accendono e vivono dentro di me per le diverse situazioni. Ma questo vale per me. A te che cosa vale? Strappati i capelli, buttati per terra, inginocchiati, piangi, digiuna, grida, fai quello che vuoi, ma ricerca quello che il Signore vuole affidarti e anzi che ti ha già dato, perché non c'è niente senza il mio impegno verso di Lui. Loro hanno dovuto scavare, dice, ma potevano anche non scavare, il buco arrivava l'acqua, se doveva arrivare arriva l'acqua, no, o tanto scavare, no, dovevano scavare le buche. Ed è quello che il Signore... Un ultimo esempio e termino. Che vale, io lo so che poi ricordiamo più queste sciocchezze che tutto il messaggio, perciò lo faccio. Prima c'è sempre la fiera del Levante, no? Ma prima si andava come evento di famiglia, si andava a fare la passeggiata, si girava perché c'erano le cose, mangiavi le frittelle, mangiavi un po' di tutto, era proprio una festa. E poi c'era un reparto lungo lungo con tanti gabbiotti che si mettevano i venditori delle varie aspirapolvere, quelle e quell'altro. E passo davanti a una parte dove vendevano una specie di guanto. Io avevo l'ossessione del tempo per lavare la macchina, ancora oggi non è mai lavata. Questo faceva la dimostrazione, è incredibile, metteva questo guanto senza mettere acqua, lo passava sul vetro e puliva, lo passava sulla lamiera e puliva, ma senza mettere detersivi e niente, dovunque lo passava usciva lucido. Costava, ma l'ho comprato perché ho pensato, senza molto sforzo, ed è l'uomo, è furbo, l'ho tenuto fino a poco fa quel tempo che mi dispiaceva buttarlo, costava. Sono arrivato a casa con l'entusiasmo, ho messo il guanto, sono andato sulla macchina e mi lasciava tutte le righe, mi strisciava la macchina. Ho provato sui vetri e non li pulivo. O ero io che non funzionava o era il guanto. Sta di fatto che io in quel momento, siccome lo avevo più rovinato, ho sentito una vocina dentro di me che non era il Signore, va bene? Una vocina che dice, prendi il vecchio straccio, un secchio con acqua e sapone e lava la macchina. E così ho continuato a avere. E questo vale anche riguardo, perché Gesù ha detto questo riguardo allo Spirito. Riesuma, vai a cercare i doni, vai pure indietro nel tempo, o vedi che c'è un bisogno, ricerca, parla con gli altri, mettiti a fianco degli altri, fai domande, a proposito e a sproposito, litiga anche, però è importante che comprendi e che afferri quello che il Signore vuole e da lì vai a fare quello che il Signore ha detto. Che cosa ha detto il Signore? Se avete sete, venite, e noi abbiamo sete, e voi stessi diventerete una fonte. Amen? Vogliamo pregare. Signore Gesù, io voglio tanto, tanto ringraziarti perché veramente in maniera semplice parli al mio cuore come sai che io riesco a comprendere e chiedo questo anche per tutta la tua famiglia, oh Signore, affinché noi possiamo afferrare quelli che sono i tuoi semplici consigli, quelli che sono i tuoi semplici comandi per farci vivere bene e essere un mezzo di vita buona e abbondante anche per l'altro. Perciò io chiedo, Signore, che la parola Tua possa essere confermata e riconfermata attraverso le decisioni che noi prendiamo questa sera, anche durante la Santa Cena. Signore, grazie e a Te vogliamo rendere lode e onore in Cristo Gesù. Amen.